Tutti convocati di Giovanni Capuano. Garrisca il vento in lava la viola, sui campi della sfida e del valore, una speranza viva ci consola, abbiamo un biciatlete e un solo cuore. Fiorentina, voglio di fare qui, voglio regina. E l'avete riconosciuto Montella che canta l'inno della Fiorentina. C'è una città intera che da ieri pomeriggio sogna di poter tornare al passato, di arrampicarsi chissà magari fino alla vetta dello scudetto, comunque tornare a essere punto di riferimento. Insomma, Firenze sogna e saluta Mario Gomez in queste ore la sistemazione dei dettagli di un accordo da oltre 20 milioni di euro. Jovetic è in partenza, più Manchester City che Juventus, ma sarà un divorzio dolce per i tifosi viola che accarezzano un colpo davvero importante. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma potete seguirci anche su Twitter, @ tutti convocati. Dopo il traffico parliamo anche della difficile partenza della Roma questa mattina a Trigoria, tra fischi, insulti dei tifosi e senza Osvaldo che non si è presentato, ed è un vero e proprio caso. Prima però abbiamo convocato un procuratore che vive e lavora a Firenze ed è profondo conoscitore della città e di tutto quanto riguarda dalla Fiorentina. Buon pomeriggio a Carlo Pallavicino. Buon pomeriggio. E sono le ore queste dell'orgoglio fiorentino, si respira un senso di crescita che mi sembra vada al di là della soddisfazione legittima per l'arrivo di un giocatore. Personalmente lo reputo un grande colpo. C'è chi ha detto se il Bayern lo lascia andare non è un top player, in ogni caso è un acquisto importante per la Fiorentina. Sì, è un acquisto che probabilmente riporta indietro alla memoria fiorentini di una trentina d'anni, perché un'estate così elettrizzante per la tifoseria viola non si ricordava da quando arrivarono Pecci, Graziani, Monelli, Massaro e via il Pudde. La Fiorentina sfiorò lo scudetto perso l'ultima giornata con la Juventus, era l'81-82, l'estate poi dei mondiali, e devo dire che in questo momento la città è pervasa veramente da un entusiasmo, da una sensazione di possibilità e di potenzialità smisurate che lasciano lo spazio a qualunque proiezione, a qualunque obiettivo. È ovvio e scontato che la Fiorentina comunque possa e debba partire non favorita, perché da sempre c'è la Juventus che è avanti a tutti, e le squadre storicamente abituate a vincere secondo me sono sempre favorite. Però ecco, oggettivamente questa Fiorentina è la più forte degli ultimi anni, e considerato che non più tardi di 2 anni fa, insomma, a Firenze si respirava un clima abbastanza retrogenda, c'è da dire che è come essere passati all'inferno al paradiso. Ecco, proprio su questo punto, è incredibile il cambiamento in un anno. 12 mesi fa la Fiorentina e Della Valle erano contestati, c'era la richiesta di lasciare Firenze. In un anno è cambiato tutto, credo non soltanto per merito del lavoro di Montella, che nell'ultima stagione è stato un ottimo lavoro. No, assolutamente no, anche se lui ha rappresentato veramente il salto qualitativo per definizione, perché se pensi che Mario Gomez viene proprio e anche perché gli è piaciuto il modo di giocare della Fiorentina, questo significa che Montella è stato veramente la ciliegina sulla torta. Però è accaduto secondo me un fatto molto importante l'estate scorsa, quando Andrea Della Valle ha cambiato strategia e ha deciso di impegnarsi veramente in prima persona, coinvolgendo due personaggi molto molto qualificati nel mondo del calciomercato, e cioè Edoardo Massià, che io conoscevo peraltro dai tempi di Liverpool e che mi aveva già impressionato per la sua veramente conoscenza a 360 gradi di tutto il calcio. Sì, sono profili molto conosciuti anche a livello internazionale, questo può fare la differenza, lo abbiamo visto anche l'anno scorso nella pesca. Bravo. Che la Fiorentina ha fatto al Villarreal, potevano arrivarci tutti, potevano arrivarci in tanti, alla fine a quei giocatori, penso soprattutto a Borja Valero, c'è arrivata la Fiorentina e non è un caso. Esatto, così come Gonzalo Rodriguez, e al tempo stesso anche Daniele Pradè, che ha avuto la grande qualità di sapersi presentare in umiltà, in silenzio e con una grande disponibilità proprio a mettere in campo le proprie relazioni con grande discrezione. La Fiorentina veniva da un periodo un po' diverso nel passato e qui ha avuto proprio nella sagacia e nella misura di Pradè la capacità di riallacciare rapporti importanti nel calcio e di ottenere anche appunto a livello del calciomercato dei successi molto significativi. Hai l'impressione che la Fiorentina faccia parte di un progetto più ampio? I Della Valle sono molto esposti anche in queste ore in questioni economiche, politiche, editoriali. È come se nell'ultimo anno avessero riacceso una macchina che era entrata in stand-by. La Fiorentina è solo un pezzo di questo progetto? La sensazione è proprio questa, cioè soprattutto con il coinvolgimento nella vicenda di RCS, che i Della Valle in questo momento stiano realmente cercando di dare un senso compiuto alle loro attività, che sono sempre state di grande successo nel ramo ovviamente che li ha visti crescere, cioè nel ramo delle scarpe, della Tod's, e che in questo momento stia trovando sbocchi anche in altri settori, questo è abbastanza un'ipotesi suggestiva. Bisogna anche dire però che in questa esperienza, perlomeno in Fiorentina, il grande passo avanti è stato proprio la crescita di Andrea, perché fino a qualche anno fa, fino a qualche tempo fa, veniva visto essenzialmente come il fratello di Diego, invece adesso proprio ha acquisito una sua fisionomia e questo direi che si è riflesso in maniera molto positiva nella gestione del club, perché adesso il club ha in Andrea proprio il punto di riferimento, presente 24 ore su 24 anche quando è lontano dalla squadra. Io ricordo agli amici da casa i contatti 800 24 00 24 per le telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Carlo Pallavicino, l'arrivo di Gomez significa in automatico la partenza di Jovetic? Io credo proprio di sì. D'altra parte questa esperienza di Jovetic a Firenze, almeno a livello mentale, si è chiusa già 12 mesi fa. Sì, non ha senso proseguire ancora per una stagione, tra l'altro avvicinandosi a quel punto alla scadenza del contratto, perché un anno fa poteva avere una base, un senso tenerlo a Firenze per farne l'uomo della rinascita. Oggi credo sarebbero più i rischi che si corrono. Sì, esatto. Diciamo che questa mossa di acquistare Mario Gomez ancora prima di aver venduto Jovetic è stata una dimostrazione di forza della società, che sicuramente si riprodurrà in maniera interessante adesso, perché la Fiorentina ha rischiato, ma adesso potrà gestire sicuramente la cessione Jovetic alle proprie condizioni. Quindi diciamo che Jovetic andrà via, ma sono convinto che andrà via solamente alle condizioni che vorrà la Fiorentina, sì. O comunque a condizioni molto vantaggiose per la Fiorentina. E sono convinto che tra queste condizioni ci sia il non venderlo alla Juventus. Ho l'impressione che quella battuta di Marotta di qualche giorno fa, Jovetic, beh, adesso ci interessa, magari ce lo danno gratis, sia stata letta come una provocazione, e rientra anche nel discorso che facevamo prima, in ogni caso, dell'attivismo dei Della Valle e della contrapposizione con la famiglia Agnelli e del CAN. Io credo davvero non ci siano i margini perché vada la Juventus al di là della volontà del giocatore. Credo anch'io, tant'è che infatti in queste ore Ramadani si sta muovendo su versanti britannici proprio per trovare nuovi sbocchi. Sì, l'ha capito anche Jovetic, credo. Sì, io resto sempre però convinto che, essendo il mercato smisuratamente lungo, c'è più di un mese e mezzo alla fine, tutto possa ancora accadere. Questo peraltro, parlando da agente, lo trovo un grave problema per tutti, proprio perché le squadre partono per i ritiri senza le rose già definite, si rischia di creare dei gruppi che poi in realtà omogenei non sono, proprio perché ogni giocatore ha la testa e il pensiero rivolto al cellulare e al mercato, e onestamente si potrebbe chiudere le trattative in molto meno tempo. Questa cosa così infinita, che peraltro poi devo dire fa la fortuna dei media, però dal punto di vista operativo è molto dannosa, proprio perché si perde del tempo utile che invece potrebbe essere dedicato alla preparazione delle squadre per la stagione. Però si divertono i tifosi sotto l'ombrellone. Grazie a Carlo Pallavicino. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie a Carlo Pallavicino. Ci sono le informazioni sul traffico, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci su Twitter, @ tutti convocati. Adesso il traffico. Fiorentina di ogni squadra, tu sei la regina, papa papa. Fiorentina, ogni squadra ti voglia regina. Tutti convocati. C'è anche chi si dice perplesso dei soldi pagati dalla Fiorentina al Bayern di Monaco per Mario Gomez. Lo ricordiamo, un accordo sulla base di 15 milioni in contanti e poi di un sistema di bonus superiore ai 5 milioni. Proprio in queste ore i dirigenti della Fiorentina sono nel ritiro del Bayern di Monaco per definire tutti i dettagli. Flavio scrive al 349-238-6666: rimango perplesso su Gomez, a mio avviso non vale quei soldi e quello stipendio. Però ricordano le statistiche, Gomez è il giocatore più prolifico in Champions League dopo Cristiano Ronaldo e Messi, ed è un giocatore che è stato nel Bayern un finalizzatore straordinario, lo dicono i numeri, in 4 stagioni ha segnato 75 gol, lo stesso vale per la nazionale, io credo sia davvero, davvero un top player. Scrive Armando, @ tutti convocati su Twitter, Mario Gomez va bene, però la difesa rimane debole e chi produce gioco, penso che nelle prossime ore la Fiorentina dovrà anche sciogliere il nodo di Pizarro, che ha finito la stagione chiedendo di essere ceduto, è ancora un giocatore di Montella, se resta sarà Pizarro a fare gioco e poi Montella avrà a disposizione almeno un paio di moduli per poter far giocare al meglio Gomez. 800 24 00 24, andiamo a Lecce, Raffaele. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Prego. Allora, da vecchio interista di vecchia data, insomma, io volevo giusto semmai un parere riguardo tutto, insomma l'ambiente interista, tutta la situazione che si è venuta a creare, qualora lei ne avesse le facoltà, come dire, perché mi sembra una situazione abbastanza complicata, no? Sia dal punto di vista della gestione di tutto, siamo nell'incertezza più assoluta, non è una novità. Non potrebbe essere diversamente, Raffaello, quando c'è un presidente che sta trattando la cessione di un pezzo o di tutta la società con un personaggio che è ancora distante dal mondo italiano. Oggi la Gazzetta dello Sport pubblica la seconda puntata del viaggio in Indonesia per provare a scoprire meglio Tohir, che però è negli Stati Uniti, è in vacanza ufficialmente, non ha ancora parlato, non ha ancora risposto a nessuna delle domande legittime, e quindi in questo momento il mercato dell'Inter risente di quello, risente di conti che sono in rosso, sono in profondo rosso, sono conti che hanno bisogno almeno di una cessione importante. Importante, e potrebbe essere Ranocchia, che in queste ore viene dato tra il Tottenham e lo Zenit San Pietroburgo. Io penso che l'investimento più importante sia quello di Mazzarri, cioè dell'uomo che deve costruire un progetto. Tutto il resto va costruito a partire dagli esterni. Mi risulta che domani ci sarà un incontro con la Juventus per Isla. Bisogna cominciare a mettere per l'Inter qualche tassello sugli esterni, altrimenti sarà difficile consentire a Mazzarri un lavoro già da queste settimane di ritiro. Però fino a che Moratti non fa chiarezza su qual è il futuro della società, è difficile che ci possa essere chiarezza su cosa sta costruendo l'Inter. Grazie Raffaello. Nicola dalla provincia di Napoli. Salve, buongiorno, sono Nicola da Ischia, complimenti per la missione. Prego, dica. Niente, volevo fare una domanda. Il sostituto di Cavani, io vedrei bene Lewandowski, lei come lo vede? Poi volevo fare i complimenti alla Fiorentina, che i tifosi stanno lamentando, ma magari Napoli avrebbe preso Mario Gomez. Sì, ma io non credo che si stiano lamentando i tifosi della Fiorentina. anzi tutt'altro, il Napoli ci ha provato a inserirsi per Gomez, ha fatto anche un'offerta di un certo peso, però vale la volontà del giocatore, lo ha spiegato ieri, lui ha ascoltato molte proposte, si è promesso alla Fiorentina e poi non si è mosso da questa posizione. Il Napoli sta andando su Leandro Damião, è un giocatore che un anno fa era considerato un giocatore in piena esplosione, non ha fatto la Confederation perché è infortunato, ha un valore intorno ai 20 milioni di euro, risulta che ci sia da limare ancora qualcosa sia con l'Internazionale di Porto Alegre, sia con il giocatore per quanto riguarda il contratto. Io sinceramente a quella cifra preferisco la certezza di Mario Gomez, però anche la sfida di andare a prendere Leandro Damião credo sia una sfida affascinante. Il Napoli ha soldi, a prescindere da Cavani sta facendo secondo me un ottimo mercato. Grazie comunque, Trigoria questa mattina pochi minuti prima delle 9. Queste sono le voci dei tifosi che sono arrivati questa mattina presto a Trigoria, tifosi della Roma. Buon pomeriggio ad Antonio Maglie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Antonio Maglie, Corriere dello Sport. Nulla che non fosse previsto alla vigilia, compresa la contestazione, però mi sembra di poter dire è la conferma di una situazione, di una società, di un ambiente che in questo momento naviga a vista nel caos. Sì, no, direi che ci sono due aspetti. Uno, la contestazione, quella era prevista. Secondo, il fatto che fossero un centinaio, e quindi questo significa che non solo c'è la contestazione, ma contemporaneamente c'è una certa disaffezione da parte della tifoseria romanista, che notoriamente è una tra le più calde e tra le più vicine alla squadra. C'è chi insomma è andato lì e ha contestato con parole e slogan, e chi invece ha contestato rimanendosene a casa. È un problema, è evidente che questa società, non sappiamo bene se è americana o di qualche altro nazionalità, non è riuscita ancora a entrare in sintonia né con la città né con i clienti del calcio italiano. È molto bello pensare ai Celtics, all'NBA, fare dei grandi discorsi come quelli che ha fatto la Financial Times Pallotta. La realtà è che poi conta sempre quello che accade in quel terreno di gioco, e da questo punto di vista la Roma ha molto da recriminare e poco da gioire. Sì, c'è uno scollamento che è sconcertante tra Pallotta e l'ambiente romano, credito ampiamente esaurito, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa approfondendo il discorso sulla Roma, ha pagato Baldini, evidentemente non era l'unico colpevole, mi pare in forte difficoltà anche Sabatini, che ha in mano le chiavi di tutta la società. Sul mercato ci sono difficoltà che sono oggettive, al di là delle buone intenzioni evidentemente mancano anche i soldi poi per andare a bloccare i giocatori, però ad esempio anche la vicenda di Giulio Cesar, che sta per andare al Napoli, mi pare di aver capito viene letta come l'ennesimo smacco dall'ambiente. Sì, ma è tutto, il problema è vero non è tanto chi c'è o chi non c'è, il problema è vero che non si riesce a individuare una linea di comando, no? Senso che c'è un presidente che vive, non so bene, a Boston, non so, cioè, sinceramente mi interessa anche poco. Poi c'è un amministratore delegato che mi pare non è che abbia poi tutta questa dimestichezza con il calcio e con i conti del calcio, perché poi i conti del calcio sono una cosa... cioè tutte le aziende sono difficili da gestire, ma poi nel calcio l'azienda è legata a un'alea così ampia e così poco gestibile, che chi gestisce i conti nel calcio ha delle difficoltà enormi, diverse da chi ad esempio gestisce una fabbrica di saponette. Le saponette, se le fai bene, se sei bravo a fare del marketing, se sei bravo in una campagna pubblicitaria, poi alla fine più o meno riesci a venderle. Nel calcio puoi essere bravo nel marketing, puoi essere bravo. Ci vuole una competenza particolare. L'esempio è quello del Real Madrid, scusa, del Bayern di Monaco, che in testa ha comunque tutti i grandi protagonisti del passato, poi ci sarà anche chi fa i conti alla fine del mese, però tutte le scelte passano da lì. Alla Roma non succede, non è l'unica società in cui non succede, però evidentemente questo è un limite. Sì, no, ma infatti tu citavi giustamente tra l'altro il Bayern. Il Bayern da questo punto di vista è un esempio, nel senso che loro sono oculati, sono tedeschi da questo punto di vista, quindi sono oculati per definizione, sono pragmatici. E poi hai la creatività latina. Il Real Madrid spende 3-4 volte, ha speso negli anni, negli ultimi 10 anni, 3-4 volte quello che ha speso con il Bayern, e ha vinto 5-6 volte meno di quello che ha vinto il Bayern. Cioè, il problema è sempre, ripeto, è chi programma. Il problema vero della Roma oggi è che si fatica a individuare un soggetto capace di programmare. Programmare nel calcio significa sviluppare da un punto di vista tecnico l'azienda, darle una prospettiva tipo competitivo e riuscire a realizzare in un tempo non lungo, perché come diceva Keynes sui tempi lunghi siamo tutti morti, in un tempo non lungo e nemmeno purtroppo medio, una possibilità di successo. Ovviamente il peso di Unicredit è un peso importante, al di là del 40% delle azioni della Roma, e con questo rispondiamo a Marco che ha scritto al 349-238-6666. Per chiudere, Antonio Maglie, non si è presentato Osvaldo, era già un caso, era già sul mercato, direi che ufficialmente si può parlare di rottura. Credo che questo non presentarsi al ritiro renda, se possibile, ancora più difficile per Sabatini piazzarlo bene. Ma anche qui non si capisce bene perché non si sia presentato, la società dice che comunque erano d'accordo così. Cioè, io sinceramente credo che dopo quello che è successo alla fine della stagione, del campionato, con uno che ha insultato, con un giocatore che insulta in maniera così plateale il tecnico in quel momento ancora in carica, o comunque alla fine della sua carica. Sì, parliamo del tweet contro Andrea Zoli che è costato anche la nazionale a Osvaldo. Esatto. Mi sembra normale che non ci possa essere più spazio per Osvaldo, però poi lo devi vendere, questo è un problema serio. Sì, anche perché l'hai pagato tanto un anno fa, e quindi il problema è venderlo e non svenderlo. Grazie ad Antonio Maglie. Grazie a voi, arrivederci. Tutti convocati. Gomez è meglio di Tevez, scrive Paolo D'Alecco al 349-238-6666. Non so se meglio di Tevez, ma certamente Gomez è un colpo importante. Poi c'è chi chiede qual è il budget di mercato della Roma, al di là delle evidenti difficoltà di gestione della società. La risposta è che è un budget di mercato che è legato alle cessioni. Se davvero arrivasse un tesoretto intorno ai 30 milioni di euro da Osvaldo e De Rossi, che è in partenza, in queste ore danno il Paris Saint-Germain interessato ad acquistare Daniele De Rossi, se arrivasse questo tesoretto da una trentina di milioni di euro, almeno in parte potrebbe essere reinvestito sul mercato per gli ingressi. 800 24 00 24. Gianni da Ferrara, buon pomeriggio. Buongiorno, prego. Saluto a tutti, in particolare i fratelli della Fiesole, sono un tifoso viola. Contento? Contentissimo. Io senta, volevo dare un consiglio, a parte che sono talmente bravi che non ne hanno bisogno, ma Pradè e Masià, io vorrei proprio consigliare, perché Jovetic invece non lo diamo alla Juve per vedere, proprio siccome da due anni sbava per andare dai nostri odiati nemici, perché non lo diamo alla Juve così le due partite, quando uscirà con 3 gol su Groppone a Firenze e 3 a Torino, vediamo la faccia che fa? Io vorrei proprio vederlo alla Juve. Mi sembra ottimista, Gianni, e non perché la Fiorentina non sia un'ottima squadra. Io credo che alla fine, e ne parlavamo anche con Carlo Pallavicino, Jovetic alla Juventus non finirà, un po' perché i Della Valle faranno di tutto per non farlo finire a Torino, un po' perché preso Tevez, il budget della Juventus per un altro attaccante è legata a una serie di cessioni che probabilmente non avverranno nell'immediato. Domani ci sarà questo incontro tra il procuratore di Jovetic e il Manchester City, si parla di un'offerta da 30 milioni di euro, se davvero l'offerta sarà da 30 milioni, secondo me anche qualcosa meno, Jovetic sarà ceduto al Manchester City e probabilmente lo stesso giocatore se ne farà una ragione, perché comunque l'ingaggio che viene offerto è superiore ai 4 milioni di euro netti, e quindi può anche essere che Jovetic alla fine non attenda la Juventus. Alex da Como chiede al 349-238-6666 se la Juventus ha in mente un piano B, dovesse andare al Manchester City Jovetic. Secondo me non c'è un piano B, probabilmente il piano B è togliere Vucinic dal mercato e usare questa come alternativa alla coppia d'attacco titolare che almeno in partenza sarà quasi certamente Tevez e l'Oriente. Sentiamo Berlusconi ieri a proposito di proprietà che vengono dall'estero. Ci sono delle necessità che si appalesano, perché il calcio, per chi vuole essere competitivo, necessita dell'immissione di denaro, e non di poco denaro ma di molto denaro. Adesso c'è una regola nuova che si è imposta in Europa, per cui le squadre non possono approfittare di immissioni di denaro ma devono lavorare e fare i bilanci commisurati alle proprie entrate, e quindi resta questa possibilità di far entrare come soci o di cedere addirittura l'intera quota sociale, l'intero capitale della società. Non trovo niente di male. Per quanto riguarda il Milan non c'è questa possibilità, perché il Milan per me, per la mia famiglia milanesi da sempre, è un fatto di cuore, e se io dovessi arrivare a vendere delle società, l'ultima che penserei di lasciare è proprio il Milan. Oh, Berlusconi un anno fa, era il 31 luglio del 2012, sempre a Milan Channel, a proposito dell'ingresso di investitori asiatici nel Milan, diceva: magari ci fossero investitori esteri, porte aperte a chi volesse fare l'interesse del Milan, che abbiamo nel cuore come sempre. In un anno ha cambiato idea, o forse è cambiato il mercato, perché la realtà era che anche quelle trattative miravano a prendere la maggioranza del Milan. Berlusconi legittimamente ha scelto di non cedere. Gli stessi dubbi li ha Moratti in questo momento, ha forse difficoltà economiche superiori. La verità però è che sono dei salti nel buio. Abbiamo visto l'esperienza di Pallotta: quando si ha una proprietà così distante, e non solo geograficamente ma anche dal punto di vista sportivo e culturale, non sempre l'equazione soldi che arrivano, investimenti uguale risultati, è un'equazione che riesce. Santo da Treviso, buon pomeriggio. Sì, salve, buon pomeriggio a tutti quanti. Niente, io sono un grandissimo tifoso della Fiorentina e volevo sapere, secondo lei, dove vede quest'anno la Fiorentina, su quali obiettivi potrebbe puntare. E volevo dire un'altra cosa. Allora, secondo me la famiglia Della Valle fa benissimo a vendere Jovetic, però vendere Jovetic agli odiati, lo dico amorevolmente, sì, odiati fra virgolette, sportivamente, e la Juve, ed avere in cambio giocatori del calibro come Pagliarella o Matri o Marrone, dico proprio è meglio venderlo all'estero, prendere 30 milioni e che Mafia e Pradè facciano degli ottimi acquisti come hanno fatto fino adesso. Io credo credo, Santo, che questa sia la linea della Fiorentina. Poi c'è anche la volontà del giocatore, che si è promesso alla Juventus. Secondo me se ne esce se davvero l'offerta del Manchester City, e ripeto, domani il procuratore di Jovetic vola a Manchester per ascoltare quest'offerta, se davvero questa offerta è un'offerta competitiva anche per Jovetic a livello di ingaggio, io credo che se ne esca così. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Sono le ore dell'orgoglio viola, anche il tuo giornale l'ha scritto oggi, Fiorentina che entra in una nuova dimensione. Per come c'è un grande acquisto, mi sembra. Un grande acquisto. L'orgoglio viola, Sì, io rispondo con questo anche a Riccardo che ha scritto al 349-238-6666. La Fiorentina ha preso un giocatore che ha fatto la panchina al Bayern di Monaco, dove è stato sostituito da Mandžukić, che è costato la metà, l'affare l'ha fatto il Bayern. Io non riesco a essere d'accordo. Tra l'altro Gomez ha 28 anni, non è nemmeno arrivato a fine carriera, è un giocatore... L'affare l'hanno fatto probabilmente in due, perché al Bayern lui non trovava più spazio, la Fiorentina aveva bisogno di un tipo come lui, è un giocatore che ha ancora tre anni buoni, credo, di carriera davanti, ha voglia di giocare a Firenze, perché lo ha detto lui al Bayern, rifiutando altre offerte, e quindi credo che nel gioco di Montella uno con le sue caratteristiche possa essere interessante. Sì, credo poi che noi... le aree italiane possa ancora fare dei bei gol, insomma. Poi noi abbiamo visto l'impatto di Klose sulla Lazio, e nel caso di Klose stavamo parlando davvero di un giocatore come età a fine carriera, questo è un giocatore molto simile, mi sembra, dal punto di vista tecnico. Però parliamo di Formula 1, Umberto Zappelloni, abbiamo letto oggi le parole ieri di Luca Cordero di Montezemolo, ha chiesto ai suoi maggior determinazione, maggiore concentrazione, ha detto di attendere risposte concrete, più fatti e meno parole. Io non so come vadano classificate queste parole dopo quello che è successo a Silverstone prima e in Germania poi, mi sembra più una tirata d'orecchie che uno sprone. Sì, una tirata d'orecchie, perché ci si aspettava da questi due ultimi Gran Premio la Ferrari un po' più avanti in qualifica e come minimo allo stesso livello in gara, invece abbiamo trovato una Ferrari più indietro in qualifica, ma anche con un ritmo gara meno interessante rispetto a quella che era stata la prima parte della stagione. La complicazione di Silverstone dovuta alle gomme, soprattutto la bruttissima qualifica di Silverstone, e una tattica obbligata per cercare di ribaltare una situazione che sulla carta era nettamente sfavorevole in Germania, non hanno portato da nessuna parte. È vero, Alonso in questi due Gran Premi ha guadagnato due punti su Vettel, però non abbiamo visto in pista la Ferrari che ci aspettavamo e che si aspettavano a Maranello, perché ci si aspettava una reazione, un passo avanti dalle novità che erano state portate in pista, invece ci sono stati dei passi indietro, anche se in classifica c'è stato un piccolissimo passo avanti. Però oggi come oggi abbiamo una Red Bull imbattibile in gara e una Mercedes imbattibile in qualifica. La Ferrari è una Ferrari... non può competere né con una né con l'altra, è una Ferrari che va mediamente piano sia il sabato che la domenica. È un problema andare piano il sabato, perché poi in gara non sempre si possono compiere dei miracoli. Mi sembra però che la F138 sia complessivamente deludente fin qui, perché i problemi in prova ci sono dall'inizio della stagione, invece di migliorare è peggiorata invece in gara. Ma perché F138... mi sembra che Alonso faccia sempre più fatica. La F138 era partita bene, sembrava una macchina nata meglio di quella dello scorso anno, solo che lo scorso anno in questo periodo avevamo avuto delle ottime evoluzioni, quest'anno sono mancate completamente le evoluzioni sulla macchina, evoluzioni che invece altri team hanno portato in pista e che hanno funzionato, la stessa Lotus è ritornata ad essere competitiva, adesso cambieranno ancora le gomme, in Ungheria si tornerà a delle gomme più simili a quelle dell'anno scorso, il che lascia prevedere problemi ancora maggiori, perché con le gomme dell'anno scorso la Red Bull andava molto, molto meglio. Bisognerà vedere nei prossimi test, i famosi test dei giovani piloti, che non saranno più soltanto per giovani piloti di Silverstone, se la Ferrari riuscirà a capirci qualcosa e intanto se gli sviluppi necessari alla F138 permetteranno ad Alonso di partire un po' più avanti in qualifica e di tornare ad essere competitivo in gara. Credo che sia importante partire davanti in qualifica, perché l'anno scorso Alonso ha perso il mondiale anche per questo, anche perché si è trovato molto indietro sullo schieramento di partenza e poi è stato coinvolto in incidenti al via in un paio di gare proprio nel momento cruciale della stagione. Sì, ho l'impressione però che aggrapparsi ai test di Silverstone 17, 18, 19 luglio, quindi settimana prossima, sia un po' come acquistare un biglietto alla lotteria per cercare di pescare in 2-3 giorni quelle modifiche, quei progressi che fin qui non ci sono stati. Tre giorni di test, gli unici possibili in pista, possono significare anche 900-1000 km, cioè tre Gran Premi. e con i dati raccolti in 900 chilometri si possono fare delle cose, si possono fare degli sviluppi interessanti, sempre che il materiale portato in pista vada nella direzione corretta. Sì, l'esempio è quello della Mercedes, i famosi 1000 chilometri del test segreto alla fine hanno reso, lo si è visto da Monte Carlo in poi. Direttore, ti chiedo un minuto di pazienza, abbiamo le notizie sul traffico, poi chiudiamo il discorso sulla Ferrari. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Siamo con Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Per chiudere il discorso sulla Ferrari e sulle difficoltà, penso che Montezemolo debba però anche fare un po' di autocritica, ad esempio sulla conferma di Massa che Montezemolo ha voluto per il buon finale della scorsa stagione. Tra un incidente e l'altro, Massa si è perso anche in questa, fin qui è assolutamente un fattore negativo. Purtroppo Massa è andato bene fino alla Spagna, quando Alonso ha vinto lui è arrivato sul podio, aveva contribuito al gioco di squadra portando via punti importanti agli avversari per il campionato, poi da Monte Carlo in poi ha inanellato 4 uscite di pista in 4 Gran Premi, tutte con un particolare più o meno identico, un errore in frenata, perché a parte la gara di Monte Carlo che è stato un problema alla sospensione, nelle altre volte è sempre stato un problema in seguito alla frenata, clamoroso quello di domenica ad Hockenheim. Quindi Massa in questo momento è sicuramente un problema della Ferrari. L'anno scorso l'uomo di cui tutti parlavamo era però Perez. Perez quest'anno alla McLaren non ha fatto cose fenomenali, quindi cambiare il Massa di quella fine della stagione scorsa con il Perez che abbiamo visto in questa prima parte dell'anno con la McLaren forse non sarebbe stato un affare. Adesso sotto la lente credo ci sia soprattutto Nico Hülkenberg che arriva dalla Sauber e che è in prospettiva uno dei giovani di maggior talento, anche se in questo momento non è che i giovani abbiano la grande possibilità di mettersi in luce. Un giovane dal futuro promettente può essere Jules Bianchi, quello che ha lasciato la monoposto in discesa in folle, però il regolamento gli chiedeva quello, però lui è un pilota di scuola Ferrari, è un pilota che ha fatto delle cose interessanti, però avrebbe bisogno di un anno con una scuderia vera, una scuderia che gli possa permettere di mettersi in mostra, non come la Marussia di quest'anno. Sì, Bianchi ha applicato alla lettera il regolamento, magari con un po' di buon senso, trovandosi in discesa poteva anche metterla in diverso e facevi una cosa diversa, insomma. Sì, non ti chiedo un commento sulle figuracce in serie della Formula 1, perché al di là che poi tutto è finito bene sia nei box con il cameraman investito da uno pneumatico, sia proprio per la vicenda della Marussia che girava per la pista senza controllo, mi sembra che questo mondo iperprofessionistico non stia dando il meglio di sé in questa estate. Sì, quello che è successo ai box è qualcosa che fa parte purtroppo della Formula 1, del mondo dei motori. Noi quando entriamo in un autodromo e otteniamo una credenziale stampa, un pass, su quel pass c'è scritto Motorsport is dangerous, gli sport del motore sono pericolosi, non puoi annullare ed azzerare i pericoli in una gara di Formula 1, in una gara di moto mondiale, li puoi ridurre, e in questo credo che la Formula 1 debba intervenire dopo il campanello d'allarme di domenica, perché non si possono lasciare i cameraman con queste telecamere ingombranti in balia di gomme che possono schizzare via. Quindi già ci sono i meccanici che però non possiamo eliminare, io credo che i cameraman vadano ottenuti sul muretto con delle protezioni, che è poi quello che accadrà a partire da settimana prossima, che credo che sia per evitare che succeda qualcosa di veramente grave. La Formula 1 non ha avuto una stagione brillantissima, perché la figuraccia più grande credo sia quella delle gomme di Silverstone, colpa della Pirelli e colpa di chi ha costretto la Pirelli a cercare delle gomme estreme senza permettere alla casa milanese di provarle realmente in pista, perché l'assurdità della Formula 1 credo che continui ad essere questa, di obbligare i team e i piloti a delle grandi simulazioni di Gran Premio che costano, tra l'altro con i simulatori che per le grandi scuderie costano più che delle prove in pista, e invece vietare loro di fare delle prove in pista che non siano questi tre giorni che avremo adesso. Sì, è un po' il paradosso. Grazie ad Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buon pomeriggio, buona giornata. Grazie ad Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Roberto dalla provincia di Arezzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Lei è d'accordo se rimane questo lì, si può tornare alla Juve? Non ho capito, Roberto, mi perdoni. Io sono tifoso della Viola. Sì. Se rimane questo Ljajić, sì, si fa un attacco stellare. Ma secondo me Ljajić è un giocatore che la Fiorentina, se perderà, rimpiangerà, perché era perfetto per il progetto di una società in crescita come quella Viola. Io reputo un errore averlo fatto arrivare a un anno dalla scadenza del contratto, così come è successo, anche se non dobbiamo dimenticarci di che cosa è accaduto un anno fa. Un anno fa Ljajić era un giocatore perso per la Fiorentina, perso per il calcio italiano, dopo quello che era accaduto con Deglio Rossi. Poi ha fatto una stagione ottima in crescendo, è diventato un obiettivo di mercato, è diventato soprattutto un obiettivo facile di mercato, perché fra un anno va in scadenza di contratto e quindi temo alla fine la Fiorentina sarà obbligato a farlo partire, e quindi finirà al Milan, che ha già iniziato la trattativa con l'agente del giocatore, è avanti rispetto a tutti gli altri. C'è chi scrive al 349-238-6666 se la Juventus non potrebbe vendicarsi prendendolo gratis. A parte che non si prende gratis, perché quest'anno ancora ha un costo seppure inferiore al suo valore di mercato. Poi penso che da questo punto di vista Galliani sia stato decisamente avanti rispetto agli altri. A proposito di Galliani, sentiamolo sugli obiettivi del Milan in questa stagione. Ormai sono 10 anni che non vinciamo la Coppa Italia, perché l'ultima Coppa Italia l'abbiamo vinta quando abbiamo vinto la Champions nel 2003. Sarebbe gradita anche la Coppa Italia, anche se certamente è il terzo degli obiettivi. Però insomma il Milan deve porsi l'obiettivo di far bene in tutte e tre le manifestazioni a cui parteciperemo. Questo Galliani, c'è chi se l'è presa per questo richiamo alla Coppa Italia. È vero che mai in 25 anni al Milan si era parlato della Coppa Italia come obiettivo, radunandosi a luglio, però è anche vero che mi sembra che l'analisi di Galliani sia un'analisi corretta. L'obiettivo è arrivare nei primi tre per non perdere i soldi della Champions, a fare il meglio possibile in Europa, dove però le italiane non sono competitive, vedremo la Juventus a fine mercato, e allora anche alzare un trofeo come può essere la Coppa Italia a fine stagione può dare un senso a tutto. Intanto ha parlato il procuratore di Chivu, Becali. Il futuro di Chivu non dipende da questioni di contratto, ma dalle condizioni fisiche del giocatore, che saranno valutate in ritiro. Se Chivu non sarà in grado di giocare, si troverà un accordo, e quindi Chivu che va verso il divorzio dall'Inter, ma sembra di capire non per una vertenza contrattuale, ma perché non ha ancora superato i problemi fisici. A proposito ancora di mercato, nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma di Ogbonna per la Juventus. Questa notte sono state poste le basi dell'accordo tra Juventus e Torino, 12 milioni più 3 di bonus, e poi di Immobile si parlerà in separata sede. Domani la Juventus discuterà con l'Inter anche del cileno Isla. Questa notte si è trattato tra Milan e Santos per Robinho, ma i brasiliani stanno chiedendo un ulteriore sconto. Il Milan è già sceso da 10 milioni a 8,5. I brasiliani del Santos vorrebbero pagare il cartellino di Robinho, che è in scadenza nel 2014, solo 6 milioni di euro. E a proposito di Napoli, ne abbiamo parlato prima con un ascoltatore da casa. Sta per arrivare Giulio Cesar. Napoli avrà due portieri brasiliani. A ore è atteso a Napoli anche l'arrivo di Callejon, che è stato pagato poco meno di 10 milioni di euro. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani a partire dalle 14.05. Io ringrazio Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida, autore di questa puntata. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Carlo Genta torna, vi faremo una bella sorpresa. Appuntamento a domani.